Scendi giù da quella duna, siamo giunti alla pianura. Hai mai visto terra più fresca di questa? Siamo fuggiti dal paese, dei consumi e delle spese. Questa terra sembra proprio l'Eldorado. E mentre un sogno si realizza, già tu hai voglia di pizza. Maledetti questi gusti occidentali. Sconfiggeremo la paura con una botta bella dura. Diremo stop a tutti i telegiornali. Non credere nei limiti, ostacoli del baratro. Non prendere quei farmaci, ostacoli dell'anima. Tu provaci, poi tienimi, che qui si vola. Lo senti il battito, battito, battito. Ritrova la strada, affronta dubbi e promesse, le stesse bisagre che mai l'hai voluto ricordare. Piano, tu mi stringi già la mano, grazie a Dio il tuo cuore arde più del pellet. Andremo avanti senza fermate, sarà una marcia il nostro cammino. Lascia che indietro restino i corpi di chi ha venduto il proprio destino. Guardare oltre nuovi tramonti, è proprio lì che ci proietteremo. Le nostre ombre scompariranno, insieme nel sole le abbandoneremo. Saremo come le altre gendarmi, ma siamo furbi ben più di loro. Saremo come contrabbandieri in questa folle corsa all'oro. Saremo come lupi d'agnelli, ma di vergogna, ma di decoro. Saremo come ladri di vite, ma siamo vivi ben più di loro. La strada, stai tranquilla, ancora non hai visto niente. Stai tranquilla, ancora non hai visto niente.